spiego un po' perché abbiamo deciso di fare questo opuscolo, insomma, che ha una storia vecchia ormai quasi di un anno. Infatti, mentre venivamo ci dicevamo che ormai è anche un po' vetusto questo opuscolo, no? Per via di tante modificazioni che si sono susseguite col tempo, insomma, novità che sono... Sì, questo opuscolo ormai ha una genesi che è iniziata un anno fa, nel senso che noi più o meno un anno fa abbiamo iniziato a pensare in un po' di compagni a scriverlo, poi siamo riusciti a stamparlo a gennaio, dopo una discussione abbastanza lunga fra di noi. E abbiamo voluto realizzare questo opuscolo principalmente per due motivi, perché volevamo un po' spingere alla lotta, alla lotta contro questa ennesima nocività che volevano e vogliono far ricadere sul territorio in cui viviamo, e perché volevamo cercare di coinvolgere della gente a lottare assieme a noi, fermo restando una certa modalità, insomma, di cui poi magari andremo anche a parlare. L'abbiamo chiamato dall'altra parte perché ci poniamo appunto dall'altra parte rispetto a chi il gasdotto ce lo vuole imporre sul territorio e rispetto a tutti coloro che spalleggiano chi vuole imporre questo territorio e questa opera sul territorio. E quindi tutta quella schiera che col tempo di professionisti, di specialisti, di tecnici, di giornalisti, l'Accademia, che col tempo si è schierata accanto a TAP, insomma, alle multinazionali che compongono TAP. E quella degli esperti per noi era una faccenda da non sottovalutare, perché sembrano gli unici, insomma, che siano adatti a parlare, a fare i loro discorsi, sia che parlino a favore e che parlino contro, perché per esempio nel Salento anche coloro che si stanno opponendo al gasdotto hanno trattato la faccenda in maniera molto tecnica, presentando delle controdeduzioni scientifiche, eccetera eccetera. A noi questa faccenda interessava poco e abbiamo deciso nell'opuscolo di andare a trattare più che altro altre questioni di carattere economico, sociale, politico, eccetera eccetera. E quindi la prima cosa che ci siamo chiesti è, per esempio, come mai si è deciso la Puglia per far attraccare il gasdotto, per farlo sbarcare, perché c'era anche la possibilità di farlo arrivare da un'altra linea, a farlo arrivare dalle parti di Trieste, insomma, farlo arrivare in Italia da lì. E siamo, insomma, un po' andati a indagare le varie questioni, secondo noi, che hanno permesso questa scelta. La prima è perché la Puglia è sottoposta a un vero e proprio attacco di colonizzazione da parte di varie multinazionali, soprattutto dell'energia, come in passato è stato per altri fronti, per esempio in campo militare. Multinazionali dell'energia che hanno ormai completamente trasformato il territorio pugliese e salentino, principalmente attraverso l'eolico e il fotovoltaico, insomma, che hanno di fatto cambiato sia la morfologia del territorio e sia anche un po' la stessa economia. Perché per esempio se una volta le campagne erano coltivate, adesso le campagne sono date in gestione a chi impianta pannelli fotovoltaici, e per impiantare questi pannelli fotovoltaici per esempio si è visto col tempo veniva utilizzata una manodopera straniera, sottopagata, ricattata, sfruttata dall'alba al tramonto per lavorare. Un altro motivo per cui secondo noi è stata scelta la Puglia è perché la Puglia e la Sicilia all'interno dello scacchiere europeo si aprono verso mercati energetici e non solo, insomma, ancora parzialmente inesplorati, no? Se pensiamo alla Sicilia, tutta la parte del Nord Africa in cui ci sono state le cosiddette, è stata coinvolta dalla cosiddetta rivoluzione araba di primavera, le primavere arabe, eccetera, e invece la Puglia più che altro verso il Medio Oriente. Poi dalle nostre parti puntano molto sul ricatto occupazionale, infatti per esempio soprattutto nel Tarantino c'è la Marcegaglia, l'ex presidente di Confindustria, che ha impiantato delle fabbriche per produrre lì i pannelli fotovoltaici che poi vengono impiantati sul territorio, e la Vestas, che è una multinazionale danese, costruisce lì invece le pale eoliche che poi vengono sempre impiantate in zona o più che altro verso il Foggiano, perché l'eolico è più lì, insomma, che ha preso piede. E quindi il ricatto occupazionale, e poi puntano molto secondo noi anche sul fatalismo un po' che coinvolge non so se tutte le popolazioni, però da noi di sicuro è una faccenda che permea molto il tessuto sociale, insomma, il fatto che quando qualcuno venga a imporre un'opera e si comincia a parlare con la gente per opporsi a quest'opera, la gente dice no, ma sono troppo grossi, comunque lo faranno, non abbiamo i mezzi per opporci, eccetera eccetera. E alla luce di tutto ciò poi siamo andati a vedere perché e a cercare di spiegare anche in questo opuscolo perché secondo noi questo gasdotto, questo TAP, che sta, è l'acronimo di Trans Adriatic Pipeline, è dannoso. La prima cosa che abbiamo tenuto a specificare è che è dannoso in quanto tale per l'idea stessa che sorregge il progetto. Cioè, prima ancora di andare a dire il gasdotto inquina oppure, non lo so, danneggia il territorio dal punto di vista turistico, noi diciamo che questo gasdotto è dannoso per l'idea stessa che lo sorregge, perché è l'idea di un progresso che sotto questa parola, appunto progresso, tende anche un po' ad autoassorbersi, viene visto sempre come qualcosa di positivo. È dannoso perché è frutto di un'idea di profitto, cioè si vuole imporre un'opera in un certo punto esclusivamente per trarre profitto. È dannoso perché è frutto di una mentalità e di una società sempre più energivora, cioè abbiamo bisogno sempre di produrre sempre più energia per produrre nuove merci, oppure di produrre energia per tenere in piedi questo stesso sistema in cui viviamo. Tanto è vero che lì abbiamo fatto brevemente l'esempio del MAT, questo elettrodotto mastodontico che vogliono costruire in Catalogna. MAT è l'acronimo di Muy Alta Tensión, che di fatto è un elettrodotto che serve a portare l'energia prodotta in eccesso da un posto all'altro quando non si sa dove smistarla. Insomma, tutta una serie di faccende che secondo noi sono dannose già a prescindere. Poi siamo andati anche ad analizzare un po' anche faccende più, insomma, concrete, perché nonostante ciò che dica la multinazionale, questo gasdotto andrà comunque ad inquinare, perché per esempio avrà una centrale di depressurizzazione del gas, di riscaldamento del gas, che emetterà appunto emissioni nell'atmosfera. La multinazionale stessa ammette che ci saranno delle perdite lungo tutto il percorso, sia per mare che per terra. Poi ci saranno tutti i mezzi che per anni lavoreranno, il taglio della terra per migliaia di chilometri, perché come diceva Antonio, questo gasdotto parte dall'Azerbaigian, fa un giro assurdo per arrivare in Puglia. Questo gasdotto per noi è una nocività e anche per tante altre faccende che la multinazionale tende a occultare. Per esempio, loro dicono no, ma l'energia è indispensabile, però di fatto questa energia per esempio non resterà quasi per nulla in Italia, ma è destinata tutta al mercato europeo. Un po' servirebbe, a quanto è dato sapere, a sganciarsi dal ricatto della Russia, del gas russo, insomma. Pare anche che gran parte sia destinato alla Svizzera, perché la Svizzera ha fatto un piano ventennale per uscire dal nucleare e quindi andare avanti a fonti rinnovabili. Un'altra questione con cui ce la menano tanto per cercare di farlo accettare è che questa fonte cosiddetta rinnovabile potrebbe andare a sostituire altre fonti di energia più inquinanti, soprattutto la centrale a carbone di Cerano, che è una località poco a sud di Brindisi, che produce appunto energia ancora a carbone. Ma di fatto non è così, perché si è visto ed è stato anche detto chiaramente che questo gasdotto andrebbe semplicemente ad affiancare tutte le altre centrali di produzione energetica che ci sono sul territorio. Noi abbiamo cercato di illustrare anche i problemi di restrizione della libertà che porta un'opera del genere, come qualunque grande opera poi vada ad incidere su un territorio, no? Perché comporterà inevitabilmente la militarizzazione per proteggere il cantiere, eccetera, eccetera. Abbiamo un po' fatto l'esempio classico della Valsusa, dicendo che di fatto è un pezzo di guerra che si sposta da una parte del mondo ad un'altra, parlando della Valsusa, dove a proteggere il cantiere ci sono gli stessi militari e gli stessi mezzi che hanno fatto rientro dall'Afghanistan. Quindi prima hanno combattuto di là e poi vengono, insomma, a combattere di qua l'oppositore interno. Un'altra cosa che abbiamo cercato di smascherare in questo opuscolo è la faccenda del ricatto occupazionale, perché TAP ha dato spesso i numeri affermando che ci saranno 500 piuttosto che 1000 unità lavorative, insomma, che comunque sia che questo gasdotto andrà a garantire lavoro. Ma di fatto un'opera così tecnicamente complessa non porterà lavoro a chi nel Salento o in un'altra zona, insomma, è disoccupato. Perché per lavorare su un'opera così grande e poi per gestirla dopo la costruzione sono richieste delle figure ad altissima specializzazione, E paradossalmente sono quelle figure che per gli studi e per il ruolo sociale che rivestono, insomma, sono le stesse figure che ci opprimono quotidianamente. E quindi questi sono alcuni degli aspetti che noi siamo andati a trattare per dire perché vogliamo opporci al gasdotto. Sì. E una cosa che noi non abbiamo voluto porre al centro dell'attenzione è l'opposizione per alcuni motivi in particolare, insomma. Per esempio, altri hanno parlato spesso della vocazione turistica del Salento. Allora, a parte il fatto che personalmente penso che anche il turismo possa essere una nocività per tutto ciò che comporta, però secondo me attaccarsi a un particolare aspetto per rigettare un'opera del genere significa di fatto avallare la possibilità che questo progetto venga impiantato da un'altra parte. E quindi noi fin dall'inizio, fin dal sottotitolo che abbiamo dato all'opuscolo, abbiamo detto no a TAP né qui né altrove, perché pensare che possa essere impiantato da un'altra parte significa far soffrire a qualcun altro, che è un altro sfruttato come noi, in cui noi dovremmo rispecchiarci, insomma, le stesse logiche di profitto e di sopraffazione che di fatto vogliono imporre nel Salento. Inoltre, pensare che ci si possa opporre perché ci sono dei vincoli paesaggistici piuttosto che dei vincoli, non lo so, di ordine naturalistico, eccetera, è fallace, perché quest'opera è stata dichiarata opera di interesse strategico nazionale. E quando vengono così classificate le grandi opere, insomma, questa definizione scavalca qualunque altro vincolo che possa pensare di tenere a freno, insomma, la faccenda.